Alle mie mani ho un'anima pura. Wow, wow, quando sfiora tuo viso, il tuo viso. Tra le mie mani, o tra le mie mani, ho un'anima pura. Wow, wow, quando bacio il tuo viso, tu sorridi, sorridi. Oh, ferma su me le tue mani ed accendi quegli occhi grandi di cielo. No, non piangere, ferma su me il tuo sguardo bagnato di pianto. Il tuo viso, e tu sogni, oh, oh, oh. E tu sogni, e tu piangi, oh, oh, oh. E tu piangi, e tu sorridi.